Stamattina mi sono lato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono lato, io ho trovato l'invado, oh partigiano, portami via.